Abbiamo tutti le nostre convinzioni per quello che riguarda il bene e il male, forse è anche questa una delle ragioni per cui a volte non si vive in armonia. Pensiamo di fare una cosa giusta, poi si rivela sbagliata. Ma la cosa grave è quando questo atteggiamento è rivolto verso Dio. Pensiamo di fare una cosa giusta o gradita, e poi veniamo a sapere che per Dio è una offesa. Così, in questa incertezza, è opportuno considerare le cose che sono gradite a Dio per evitare di illuderci e per perseguire con certezza il suo volere. E non solo, fare le cose gradite a Dio ci mette in condizioni di essere esauditi quando preghiamo. L'Apostolo Giovanni lo dice nella sua prima lettera. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. 1 Giovanni 3:21-22. Ciò che Giovanni ha detto è paragonabile ad un assegno in bianco. Qualsiasi cosa chiediamo, se facciamo anche ciò che è gradito, lo otteniamo. Non vale forse la pena studiare questo argomento? Iniziamo a prendere in esame ciò che è scritto nel libro dei Proverbi. I perversi di cuore sono un abominio per l'Eterno, ma quelli che sono integri nella loro condotta Gli sono graditi. Proverbi 11:20. Questo proverbio non fa altro che mettere in evidenza ciò che abbiamo appena detto. Quelli che osservano i comandamenti di Dio con integrità sono graditi a Dio. Vediamo applicata questa verità nella vita di coloro che hanno vissuto e vivono per Dio. Se guardiamo nella Scrittura, gli esempi sono molti perché uomini come Abramo, Mosè, Davide, Elia, Eliseo, Ezechia, gli apostoli di Cristo, sono stati esauditi in modo particolare, tanto che a volte nel nostro intimo ci viene da invidiare. Eppure essi non avevano nessun segreto, erano persone che camminavano alla presenza di Dio, facevano le cose che erano gradite a Dio. E per questo Dio li gradiva, ascoltava in modo particolare la loro voce e il loro grido. Così è pure al giorno d'oggi. Vi sono persone attorno a noi che sembrano non aver niente di particolare, ma posseggono un modo di parlare. Sono estremamente tranquilli e fiduciosi nella vita che mette in imbarazzo. Sono persone che si comportano in modo gradito a Dio e di conseguenza sono da Lui graditi. Un altro proverbio della Scrittura mette in evidenza altre persone gradite a Dio. Le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno, ma quelli che agiscono lealmente Gli sono graditi. Proverbi 12:22. Quando si tocca il tasto della menzogna e della lealtà ci, è da saltare sull'attenti. Nonostante si sappia che la menzogna sia uno dei peccati più evidenti condannati dall'Innia, Eterno Dio, è forse il peccato quotidiano più commesso, talmente praticato che ormai non ce ne accorge più. Il peccato della menzogna si nasconde bene nella scusa, quando si porta una ragione per giustificare una nostra colpa. Nonostante però che siamo così abili nel nascondere agli uomini le nostre menzogne, Dio vede e sente, e per questo il salmista dice che quelli che agiscono lealmente Gli sono graditi. Perché allora stupirsi di una società che invoca Dio nelle preghiere formaliste e religiose e non viene esaudita? Perché stupirsi di persone che mentono ad ogni istante e poi quando si rivolgono a Dio si arrabbiano perché non sono esaudite? Agire lealmente significa essere sinceri, aperti, schietti. Comportarsi in modo corretto con il prossimo, non nutrire rancore o amarezze. Questo comportamento ci rende graditi a Dio. Stiamo camminando in questo modo proprio perché essere graditi a Dio è uno degli obiettivi più importanti. L'Apostolo Paolo scriveva in questi termini agli abitanti di Corinto. Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi sia che abitiamo nel corpo sia che partiamo da esso. 2 Corinzi 5:8-9. Per non rincorrere un ideale che non esiste, dobbiamo ricordare che essere graditi a Dio non è facile ed ha un prezzo molto alto. L'Apostolo Paolo era gradito a Dio, ma la sua vita dal punto di vista umano era un fallimento. L'Apostolo parlava e camminava senza riguardi e per questo aveva degli avversari. Quando scriveva diceva ciò che era giusto e per questo veniva giudicato severamente. si adattava a tutte le situazioni per amor degli altri e per questo gli estremisti lo abbandonavano, non si metteva in mostra e per questo non veniva considerato. Predicava il puro Evangelo e per questo aveva dei nemici. Più volte l'Apostolo Paolo ha dovuto difendere il suo apostolato e la sua chiamata, più volte si è trovato nell'umiliazione, eppure, non si è mai scoraggiato, non ha mai mollato un solo momento il suo obiettivo di predicare l'Evangelo, ha conservato la fede perché sapeva di essere gradito a Dio. Chi sa di essere gradito a Dio? Non ha bisogno di cercare disperatamente di essere gradito o di piacere agli uomini. E questo è un dono che pochi raggiungono. Altro modo per essere graditi a Dio è quello di lodarlo con un canto. Io celebrerò il nome di Dio con un canto e lo magnificherò con le lodi. E ciò sarà gradito all'Eterno più di un bue o di un torello che abbia corna e unghie. Salmo 69, 30-31. Il canto fa parte dell'espressione umana. Per gli uccelli il canto espresso nel fischiettare fa parte del linguaggio, ma nella razza umana il canto è generalmente una espressione di gioia. E, per questo che quando cantano gli uomini si rivolgono alle cose piacevoli, tra le quali quasi in modo assoluto al sentimento dell'amore. E colui che ha conosciuto l'amore di Dio in Cristo, che canto deve elevare? Giacomo risponde nella sua lettera. C. È qualcuno di voi sofferente? Preghi. C. È qualcuno d'animo lieto? Canti inni di lode. Giacomo 5:13. In poche parole Giacomo ha riassunto l'atteggiamento che si deve avere nella vita. Se si soffre, si prega. Se invece tutto va bene, tutto è motivo di gioia, si salmeggia, cioè si cantano inni di lode. L'inno di lode è quella musica che contiene parole di riconoscenza verso Cristo e Dio, parole che mettono in evidenza una caratteristica del Dio Trino. I salmi che si trovano nella Bibbia sono appunto degli inni di lode e da essi possiamo imparare cosa dire nei giorni di gioia. E questo è gradito a Dio. Quando sei allegro canti le canzoni di moda o intoni inni che contengono parole di riconoscenza verso Dio per quello che è e per quello che fa. Un inno che sale nel mio cuore, spontaneamente, perché sono musica e parole mie, che è conosciuto e udito da Dio, contiene queste parole. Grazie Gesù perché ci sei tu. Grazie Gesù perché ci sei tu. Non voglio nulla di più. Sono poche parole, la musica certamente non è una delle migliori, ma io so che quando canto sono gradito a Dio. Non ricevo applausi. Non sono andato a Sanremo per avere un folto pubblico, ma ho un pubblico molto più grande e importante. Nel cielo ci sono migliaia e migliaia di angeli che sentono il mio canto. Ho una giuria composta dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, una giuria che non valuta la qualità della voce e della musica secondo gli uomini, ma guarda al cuore. Io sono doppiamente riconoscente al mio Dio, perché per essergli gradito non occorre necessariamente fare cose straordinarie, ma elevare il cuore per riconoscere l'opera di Cristo. Fai così anche tu. Anche tu elevi gioia e riconoscenza ogni momento nella tua vita. Se è così sei benedetto e soprattutto gradito a Dio. Vi sono momenti che per essere graditi a Dio non è facile. Soprattutto in quello che scrive l'Apostolo Pietro. Ho cambiato solo tre parole per rendere il discorso attuale. Operai, siate con ogni timore sottomessi ai vostri datori di lavoro, non solo ai buoni e giusti, ma anche agli ingiusti, perché è cosa lodevole se uno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente. Che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente delle ingiustizie quando siete colpevoli? Ma se sopportate pazientemente delle ingiustizie quando agite bene, questa è cosa gradita a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio, affinché seguitate le sue orme. 1 Pietro 2:18-21. Ho lavorato 37 anni in fabbrica come operaio e conosco cosa significa stare fianco a fianco con decine di persone incredui e essere sottomesso a un datore di lavoro che, come tutti, pensa solo ai propri interessi. Di ingiustizie ce ne sono e se ne prendono, ma ho trovato quanto fosse buono per me non farmi sempre le ragioni e sopportare pazientemente. Nelle ingiustizie spesso noi guardiamo il presente, ma dimentichiamo che per Dio, e di conseguenza anche per noi, la cosa più importante non è vincere ogni causa o stare sempre a galla, ma sviluppare quelle virtù cristiane che sono più importanti se ci crediamo delle realtà terrene. Sopportare l'ingiustizia con il giusto atteggiamento è dunque una delle cose gradite a Dio. E allora, se così è, perché ribellarsi continuamente per le ingiustizie? Certo, il credente non deve essere uno sprovveduto o uno sciocco, e quando è il momento deve farsi le ragioni, ma l'Apostolo Pietro ci sta insegnando, lui che di ingiustizie ne ha subite, che se vediamo nell'ingiustizia un'occasione per essere graditi a Dio, il nostro atteggiamento sarà diverso. Il credente, quando riceve un torto, non si sentirà un martire o un fallito, ma nel suo cuore nutrirà la gioia di essere gradito a Dio. Ci crediamo. La tristezza del credente non deriva dal fatto che non crede a ciò che è scritto. Infine, vi è una promessa che al mio cuore è preziosa. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Ebrei 12, 5 a 6. Non credo di avere le parole giuste per commentare questa promessa, ma la mano pesante di Dio nella vita dei suoi figli è anch'essa un segno di gradimento. Dal lato umano non è molto consolante, ma è cosa gradita a Dio anche credere che ciò che è gradito a Dio è quello che Lui ritiene gradito. Credo che la conclusione più opportuna di queste riflessioni sia quella che troviamo nella lettera agli Ebrei. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signor nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore, vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ebrei 13, 20-21. Ottobre 2005. Ellero.